passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti, 800-24-0024 per chiamarci in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito con gli ultimi telegiornali andati in onda, TG2. Si combatte ancora in India, intorno agli hotel di Mumbai, attaccati ieri sera dai terroristi islamici, decine di civili bloccati negli edifici, finora 125 morti. Un italiano, Antonio De Lorenzo, tra le vittime degli attacchi in India, altri 7 nostri connazionali tra gli ostaggi dei terroristi all'hotel Oberoi di Mumbai. Un operaio di 31 anni è rimasto folgorato mentre eseguiva dei lavori alla stazione centrale di Napoli. Palazzina crolla nel Mantovano, due operai feriti. Fermate 68 persone che vendevano pacchi sull'autostrada Bologna-Rimini. Offrivano computer a prezzi stracciati, ma una volta a casa si scopriva che il pacco era pieno di cartacce. Perché un ministro deve sprecare qualche ora magari del suo tempo e addirittura dichiarazioni, interviste per parlare dell'Isola dei Famosi? Accade in Italia, dove il ministro Meloni dice: l'isola è un cattivo esempio, i concorrenti mangiano poco e ogni tanto si abbuffano, è brutta abitudine alimentare. Insomma, è un cattivo esempio per l'anoressia. Questo dice il ministro Meloni, un ministro dunque che si esprime sull'Isola dei Famosi. Sentiamo Studio Aperto. Da quasi 24 ore i terroristi stanno scatenando l'inferno a Mumbai, in India, attaccati contemporaneamente 10 obiettivi, tra cui i principali alberghi. 125 morti, tra questi un italiano. Circa 350 i feriti, almeno 7 nostri connazionali ancora chiusi nell'hotel Oberoi. Blitz delle forze speciali in corso, gli aggiornamenti in diretta. Strage di erba, Olindo e Rosa sorvegliati a vista dopo la condanna all'ergastolo e 3 anni di isolamento. Si rifiutano di mangiare, poco fa si sono incontrati in carcere come ogni giovedì. Il prete che li ha sposati, se li separano, si ammazzano. Non ci sarà la temuta gelata di Natale, parlano i dati della Confcommercio, i consumi caleranno dell'1%, ma gli italiani spenderanno di più. Risparmieremo sull'abbigliamento, ma non sulle novità tecnologiche, telefonini, videogiochi e schermi al plasma. Sta meglio Armando, il pugile 17enne di Napoli, finito in coma durante un combattimento juniores. Voleva diventare un campione come Clemente Russo, argento a Pechino. Bene, alle 18:37 in questo momento, 800-24-0024, erano i principali titoli di Studio Aperto. Questa sera vogliamo iniziare con Francesco Pionati. Buonasera. Buonasera a te. Chi non ricorda Francesco Pionati, anzi non è che sia passato tanto tempo da quando faceva il, si dice in un'espressione bruttissima, mezzo busto Rai, insomma. Qualcuno dice che Pionati è stato addirittura l'inventore del panino, del sandwich, del pastone politico, è così? Beh no, sfortunatamente per me no, ci sono dei precedenti illustri. Ex portavoce dell'UDC fino a qualche settimana fa, è uscito dall'UDC per fondare l'Alleanza di Centro, insomma convergere verso il Partito del Popolo della Libertà, verso Berlusconi. Adesso Pionati, magari Di Pietro parlerà di corruzione politica, in cui il corruttore è Berlusconi e il corrotto è lei, o no? Però occorre la materia per la corruzione, che nel mio caso non c'è in nessun senso, nel senso che io ho lasciato una posizione privilegiata di portavoce, di dirigente nazionale del partito, e mi avventuro in una cosa che invece non ha certezza, senza rete, senza incarichi, senza prebende, quindi è solo una questione di passione politica. Io ho detto e ripeto di avere il pregio e il difetto di fare politica per passione e non per necessità, essendo, come tu hai benevolmente ricordato, un giornalista abbastanza affermato del TG1, a posizione inaspettativa? Esatto, posizione nella quale posso rientrare in qualunque momento, quindi faccio solo seguendo la mia passione politica. In questo momento ritengo che l'UDC si sia messa in una condizione non più sostenibile, che comporterà delle scelte da parte di tanti di noi. Dunque, perché hai lasciato l'UDC in sintesi? In sintesi perché noi siamo in questo momento in una posizione di galleggiamento che non ha significato, una finta equidistanza tra centrodestra e centrosinistra, dimenticando che l'UDC è un partito che geneticamente è nato e si è strutturato per 14 anni in un'alleanza di centrodestra, e che invece in questo momento, ripeto, va da una neutralità assolutamente insostenibile, perché tra l'altro i sistemi elettorali non consentono neutralità. Se non ti schieri di qui o di lì non vai sicuramente in nessun caso a vincere le elezioni, ma nella peggiore delle ipotesi è uno scivolamento verso il Partito Democratico, che non è sicuramente la nostra, o perlomeno la mia prospettiva. Noi abbiamo studi molto precisi, 3/4 del nostro partito, sia in termini elettorali che in termini di classe dirigente, sono formati su una logica di centrodestra. Quindi io, nella persistenza di questa condizione equivoca, ho fatto la mia scelta e mi sono posizionato con un movimento piccolo per quanto sia, comunque mi sono posizionato in una chiara alleanza di centrodestra. Chiarisco, io rispetto molto anche chi vuole andare dall'altra parte come Tabacci, che insomma aspira in maniera esplicita all'alleanza col PD. A me va benissimo, però fare del galleggiamento e dell'attesa una linea politica non è, secondo me, sensato. In politica le cose vanno fatte per scelta, vanno costruite. E io devo aspettare un domani che così, in maniera con interventi soprannaturali, le cose si risolvano. Io vedo un partito che è in una posizione non spendibile. Insomma, noi abbiamo, dico questo molto rapidamente, nelle elezioni del 2008 abbiamo avuto il bicchiere mezzo pieno, nel senso che ci siamo salvati rispetto alla sinistra, ma abbiamo anche avuto il bicchiere mezzo vuoto perché ci siamo messi in una posizione marginale. Noi nel Parlamento italiano non contiamo, visti i numeri. Fammi essere un po' cattivo, Francesco, quando tu dici senza rete, beh, insomma, andare nel Partito del Popolo della Libertà, che in questo momento è al governo, non significa essere senza rete. Guarda, significa andare in una grande partito che ha il governo e che ha grande consenso, eccetera. Io non vado innanzitutto nel PDL, sono iscritto al gruppo misto e sto facendo questa formazione non per entrare nel PDL, ma per dare posizionamento nel centrodestra a chi vuole stare nel centrodestra. E poi ti dico, da collega, non mi pare che questo sia un momento particolarmente felice per il governo e per la maggioranza, anche in prospettiva di quello che ci aspetta. Ci saranno sicuramente manovre molto impopolari. Però un'altra cosa il vincitore, insomma, è un'altra di difficoltà. Un'altra cosa però è questa: perché non pensarci nel 2006? Nel senso, non è che sia passato nel 2008, scusami, alle elezioni di adesso, non è che siano passati secoli dalle elezioni, eppure no. quando l'UDC si è presentato alle elezioni, tu come rappresentante dell'UDC avete parlato di progetti sbagliati, PD, PDL, tutto. Sì, rispondo subito. Il problema è che io ritenevo, come la maggior parte dei nostri elettori e dei nostri dirigenti, che quella fosse una parentesi, una condizione di necessità, nel senso che effettivamente rispetto a una forma di diktat, o entrate nel PDL o uscite, per un problema di dignità di partito ci siamo difesi e abbiamo ottenuto il risultato poi alla fine confortante. Però da questo a fare il passaggio di una linea politica che si ricava da un momento particolare mi sembra eccessivo. Ripeto, una forza politica non può prescindere da quello che è dal punto di vista genetico, come devo, non so se è chiaro il termine, dal punto di vista costitutivo. Noi siamo una forza moderata che per 14 anni ha fatto parte del centrodestra. Ora, la neutralità, superato il momento dell'emergenza elettorale, non è più spiegabile. E a maggior ragione, secondo la mia visione, ripeto con grande rispetto per chi guarda il PD, non è spiegabile uno scivolamento a sinistra. Un'altra cosa, insieme a te ci puoi dire se c'è qualche altro deputato senatore o... Guarda, ti rispondo molto chiaramente, io dei parlamentari non mi sono occupato perché il parlamentare in questa fase di inizio legislatura è la pedina meno importante. Noi abbiamo scadenze amministrative di primavera, quindi quello che a me interessa è il radicamento territoriale. Parlando con Berlusconi ho fatto un esempio. Io sono appassionato di cinema, non so se tu ricordi sicuramente il film Oltre il giardino con Peter Sellers, no? Chance il giardiniere, un film sì, epico. certo. Ecco, praticamente il parlamentare è il fiore sulla pianta che tu puoi anche togliere, ma se la pianta è sana il fiore ricresce. A me interessano le radici della pianta. Quindi posso dire di non essermi assolutamente preoccupato dei parlamentari, ma di aver lavorato invece sugli amministratori locali e i consiglieri regionali. E poi vedremo. Ce ne saranno parecchi che ci seguiranno. Comunque la conferenza stampa è la prossima settimana e trarremo le conseguenze. Allora, un'ultima cosa però, è un po' una curiosità. Perché chi esce da un partito per intraprendere un'altra strada, diciamo così, deve per forza, io lo dico con tutto il rispetto, Francesco, deve formare un altro movimento politico. È successo con Follini quando è uscito dall'UDC, ha fatto, non mi ricordo che cos'è, l'Italia di centro, l'Italia di mezzo, adesso bravo che lo ha ricordato. Poi è successo anche con Giovanardi, adesso succede con te. Perché non dire direttamente, vado nel PDL, punto e basta. Sì, e io rispondo rispondo dal mio punto di vista, ovviamente non posso rispondere per altri perché non so i loro percorsi. In questo caso io mi sono permesso di proporre questo movimento, che poi ripeto sarà poca cosa, non ho ambizioni di particolare rilievo, perché credo che ci sia un'esigenza diffusa, non è un fatto personale, il mio non è un malessere personale, individuale, di insoddisfazione, anzi al contrario, io della mia posizione nel partito sicuramente non avevo nulla di cui lamentarmi e ringrazio ancora oggi sia Cesa sia Casini, è un malessere diffuso perché, come ti ripeto, il corpo del partito, specie in periferia, mal sopporta questa nostra posizione di neutralità o di convergenza sul PD, e quindi per dare un riferimento a tanti amici che me l'hanno chiesto, se io sono tempestato da ieri di telefonate, messaggi in posta elettronica, ovviamente qualcuno mi insulta, però al 90% sono adesioni e gente che vuole partecipare. Chi ti insulta che dice? Ma no, traditore? No, qual... dico per dire insulta, no, no, non so, trasformista, che ho sbagliato, che devo combattere dall'interno, però al 90% sono persone che mi danno un consenso entusiastico e mi danno i loro riferimenti per essere chiamati a essere coinvolti. Solo questa è la mia motivazione, non essendo un caso individuale e soggettivo, dare un contenitore a chi la pensa come me. Va bene, ti ringrazio. Grazie, ciao, ciao. 18:44 800 24 00 24. Noi comunque restiamo sempre cattivi. Allora, come già detto, abbiamo ripescato qualche frase di Francesco Pionati che faremo sentire tra pochissimo. Nel 2008, cioè adesso, poco prima delle elezioni, quando tuonava contro da una parte Veltroni e dall'altra anche Berlusconi. Qualcuno dice, beh, allora Pionati, ex mezzo busto del TG1, poi passata all'UDC, adesso con Berlusconi dovrebbe dimettersi da deputato. Intanto, fino a pochi mesi fa, in campagna elettorale, diceva che il PDL è uno pseudopartito. Sì, ci presentiamo da soli perché non abbiamo ritenuto possibile convergere nel Popolo delle Libertà per il metodo che è stato seguito per la composizione di questo nuovo pseudopartito, che poi deve dimostrare di essere un partito, perché io da giornalista vedo che ogni sera nei telegiornali vengono riferite le posizioni di tutti i partiti che compongono il Popolo delle Libertà. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Molte, molte critiche oggi sui giornali sulla social card di Tremonti, ne abbiamo già parlato ieri sera. Qualche intervento dagli ascoltatori, andiamo a sentire Alessandro che ci chiama da Ferrara. Buonasera Alessandro. Buonasera. Dica. Io volevo fare una proposta al governo, un suggerimento. Sì, basta governo. Che lei abbassi la radio però, perché altrimenti non sentiamo al nulla. Al presidente Berlusconi o al ministro Tremonti. Sì. Visto che c'è il rischio di una discriminazione dei cittadini più poveri che avranno la social card anziché quelli ricchi che non l'avranno, si potrebbe dare la social card a tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età, riferita al codice fiscale, dopodiché il governo potrà mettere i soldi dei cittadini poveri sulla social card e potrebbe mettere sulla social card di quelli più ricchi magari l'eventuale sconto sulla 13ª di cui si sta parlando o eventuali rimborsi della dichiarazione IRPEF eccetera. Così perché lei parla di discriminazione? Perché avere questa social card in mano e presentarsi, social card insomma, buono acquisto, carta acquisti, presentarsi a un supermercato significa che uno si dovrebbe un po' vergognare di essere considerato, si rischia di essere considerati dei pari, mi spieghi? Assolutamente no, per quanto mi riguarda assolutamente no, però visto che sui giornali e comunque per radio, sugli organi di informazione si sta dicendo che questa social card sarà come diciamo una macchia delle persone che dovranno dimostreranno immediatamente di essere dei poveri, per evitare questa situazione di discriminazione o per evitare che le persone si sentano diciamo discriminate rispetto agli altri, si potrebbe dare a tutti, ognuno ha sulla social card quello che... Sì, ho capito, ho capito. Alessandro, mi sembra un qualcosa molto difficile da fare. La ringrazio. Roberto da Padova, buonasera. Sì, buonasera. Volevo anch'io fare un intervento sulla social card e in particolare mi vorrei un po' più soffermare sul discorso dello strumento che viene utilizzato. Sì. E anche l'operatore che poi offre questo tipo di appoggio su questo strumento che è il CAF. Io le faccio un esempio molto personale di una zia anziana, facilmente dove le entrate sono 500 euro al mese di pensione, 450 euro di accompagnatoria perché soffre di una forma di demenza che ormai è abbastanza tipica per le persone che cominciano ad avere sopra i 90 anni, ha un normalissimo appartamento quindi costruito nella vita e queste sono le entrate. E ovviamente per gestire questa persona che abitava nel Friuli l'abbiamo dovuta portare messo casa nostra nel Veneto e chiaramente gli abbiamo dovuto far dare la residenza. Dunque? A questo punto la sua casa è diventata una seconda residenza, paghiamo un ICI per una seconda residenza. Dunque in soldoni, Roberto, cosa ci vuole dire a proposito della social card? Voglio dire, è molto semplice, che dal punto di vista, cioè tenga conto che la badante, il costo della badante, che sono 900 euro al mese più i contributi, perché ovviamente la badante va messa. Non può essere inserita nella dichiarazione ISE. Quando una persona prende, e questo conto alla mano, 1000 euro al mese, 900 ne deve tirare fuori per la badante, e le dico che sul conto corrente postale ci sono né più né meno che 2000 euro. Ho capito, euro. Cioè secondo lei va a beneficiare una platea troppo ristretta? Certo, va bene. La ringrazio Roberto. Addirittura secondo alcuni, secondo Vittorio Feltri, oggi sul Libero, in larga parte saranno evasori fiscali e furbi. Non c'è solamente il criterio dell'ISE e dei CAF, dunque, per stabilire i fruitori della social card, ma anche altri criteri, almeno così sembra, poi vedremo. Intanto i concorsi, come sapete, i concorsi per professore universitario in Italia sono una vergogna, l'abbiamo detto più volte, ma adesso spuntano fuori, già la polemica divampa da qualche giorno, anche i concorsi per magistrato, soprattutto l'ultimo concorso che si è svolto a Rho, vicino a Milano, e riguardava naturalmente persone che venivano da tutta Italia. Arrabbiatissima come tanti altri colleghi, perché siamo a un concorso in magistratura e la legalità dovrebbe essere sovrana. Se un sorvegliante, se io segnalo questa cosa, mi viene a dire si faccia i fatti suoi, è una vergogna. Accanto ai codici regolari anche manuali non consentiti sono stati trovati sui banchi nelle aule della Fiera di Milano, dove migliaia di candidati aspirano a uno dei 500 posti da magistrato. Una cinquantina di candidati sono stati espulsi, ma la polemica non si placa. Anche il concorso per i magistrati, il concorso più serio e più severo in Italia, finisce ora sotto accusa. Il fatto grave è che regalano il timbro della commissione, quindi non era materiale illegittimo. Se hanno fatto i controlli. Persone che hanno copiato manuali che non dovevano entrare e sono entrati. Questa sera è intervenuto anche il ministro Alfano, semplicemente per dire che chi ha truccato non potrà più fare il concorso per i magistrati. C'è un serio pericolo, tra virgolette, in realtà non è un pericolo, che questo concorso venga annullato. Naturalmente noi non dico che facciamo appello, però chiamiamo tutti quelli che erano presenti in quell'aula dove sono stati portati quei manuali a chiamarci questa sera al nostro numero, come al solito, 800 24 00 24, per raccontarci quello che davvero è successo. Si parla ancora a sproposito di televisione, come vi dicevo all'inizio. Sentite per esempio Vauro, che è, come sapete, protagonista di una trasmissione televisiva, e questo è un po' il paradosso, dire che il telecomando ormai non serve a niente perché tanti programmi sono tutti uguali. Donna di spettacolo, donna, uomo, quello che è di spettacolo, potrebbe scegliere spettacoli un po' migliori di quello desolante. Vabbè, però questa è la sua opinione, poi esiste un aggeggio che si chiama telecomando e che ci fa sparire tutti a seconda del gusto del pubblico. Sono tutti uguali, alla fine io lo uso quell'aggeggio lì, poi l'ho buttato via. Cioè il sistema migliore per usare il telecomando è prenderlo e lanciarlo, perché tanta voglia a pigiare i tasti. Da una parte c'è l'Isola dei Famosi, di là c'è la Talpa, di là c'è il Grande Fratello, di sotto c'è la De Filippi, ma che serve il telecomando? Ma facciamolo, siamo nel paese del maestro unico, del pensiero unico, del nano unico, facciamo anche il telecomando col tasto unico, tanto è tutto uguale. Pensiero unico, nano unico, maestro unico, ma di che sta parlando Vauro? Soprattutto perché cita solamente le trasmissioni che servono al suo ragionamento. La televisione è fatta di tante altre trasmissioni, tra cui la sua, che è ben onda questa sera, dove lui è protagonista. Per cui mi pare un ragionamento assurdo, e poi è anche abbastanza ingeneroso, sempre nei confronti della televisione dove lui sta, il giudizio che dà dell'Isola dei Famosi. Si può naturalmente pensare in tanti modi sull'Isola dei Famosi, ma parlare addirittura di immoralità mi sembra un po' bizzarro. Io sarò molto lapidario. Programmi come l'Isola dei Famosi sono un'indecenza dal punto di vista mentale proprio, perché sono programmi da idioti e sono un'indecenza anche per dove si svolgono. Credo che l'Isola dei Famosi sia in Honduras. Sì. Honduras è un paese che ha problemi ben più seri di quelli del bidello piangente o di Luxuria con le mutande della Marini in testa. Quindi andare a prendere per il culo quella gente io lo trovo indecente anche da un punto di vista morale. TG3. A Mumbai caccia ai terroristi dopo gli attacchi a catena che hanno provocato 125 morti, un italiano liberati, decine di ostaggi, altri bloccati, anche italiani. Indignazione e condanna da tutto il mondo, il presidente Napolitano dice serve anche un'efficace iniziativa politica. Dietro gli attentati a Mumbai c'è Al-Qaeda, intervista del TG3 ad Ahmed Rashid, massimo esperto del terrorismo asiatico. Vertice di governo per le misure anticrisi, Sacconi al TG3, intervento su ammortizzatori ed opere pubbliche, ma è forte il vincolo del debito. Conferenza del PD sul welfare, bisogna ripensare lo Stato sociale contro la crisi, non servono misure spot ma un vero sostegno ai consumi. A Natale gli italiani faranno meno acquisti ma non ci sarà un crollo delle vendite, le previsioni di Confcommercio. Ringrazio i testimoni, la morte di Alessio non è stata inutile, parla la mamma del ragazzo travolto dall'ubriaco condannato a 10 anni. È stata processata oggi, lo stesso tribunale l'ha assolta, era entrata nel Palazzo di Giustizia di Cremona col viso coperto dal velo. Vorrei capire da voi se la pensate in questo modo. Oggi l'Unità, quotidiano di sinistra, titola in questo modo: elemosina. Tremonti presenta la social card, 40 euro al mese per 1.300.000 anziani poveri. Cosa comprare ogni giorno con 1,33 euro? Infatti in prima pagina c'è 1,33 euro. Con la somma elargita dal governo si acquista mezzo litro di latte e 2 rosette, oppure 1 chilo di pasta, oppure 2 caffè scontati. Questo per far capire, insomma, che si tratta appunto di elemosina, cioè che non serve assolutamente a nulla. Un ascoltatore prima scriveva: serve solamente a chi emetterà questa social card. Molto molto pessimismo, insomma, intorno anche un po' di snobismo, direi, intorno a questa proposta. Mario De Aglio, per esempio, oggi sulla Stampa scrive: la social card spezza l'unità dei cittadini, li distingue in individui di classe A e di classe B. Si era combattuto a lungo perché avessero tutti pari dignità, il che significa che a nessuno la povertà doveva essere attaccata addosso come un marchio. Questa era la base ideale, sicuramente sofferta, sicuramente difficile da realizzare, dello stato sociale. Invece la social card rischia di diventare precisamente un marchio, sinonimo di perdita di dignità e oggetto di vergogna. Ora la domanda è: la dignità, la vergogna passano dall'esibire una social card davanti a un negozio di alimentari, a una cassa di un negozio di alimentari? Io non credo, però posso sbagliarmi naturalmente. Sky TG24. 125 i morti negli attacchi di Mumbai, tra le vittime anche un italiano. Ancora decine di ostaggi nell'albergo, la Farnesina smentisce il blitz. L'India accusa terroristi arrivati dal Pakistan, Islamabad respinge le accuse. Dura la condanna internazionale, Frattini, guardia alta contro il terrore. Kamikaze in azione anche a Kabul, vicino all'ambasciata americana, morti 4 civili. Ultimi ritocchi al piano anticrisi, vertice del governo, domani il varo delle misure. L'affondo di Napolitano, la miopia dei governi europei blocca le riforme. CAI, decollo rinviato, la nuova compagnia non partirà il 1 dicembre. Napoli, operaio 31enne muore folgorato alla stazione centrale. In arrivo una forte ondata di maltempo, pioggia e neve anche a quote basse. Bene, 19:22, 800 24 00 24. Un ascoltatore scrive: il suo programma è fantastico ma dovrebbe parlare di più di politica internazionale, non sottovaluti i suoi ascoltatori. Obama ha confermato Gates alla difesa, solo immagina in Italia un nuovo governo che tiene un bravo ministro dell'opposizione sconfitta, Ivan da Udine. Certamente lo spunto è interessante. Un altro spunto interessante dagli Stati Uniti è il fatto che ci sono molte proteste da parte dei progressisti, chiamiamoli così, del Partito Democratico, di quelli che si aspettavano una grande rivoluzione da Obama. Invece le prime nomine, soprattutto per quello che riguarda l'economia, ma anche quelle che verranno per la difesa e per gli esteri, sembrano confermare invece un certo conservatorismo da questo punto di vista. Insomma, Obama ha presentato un vecchio presidente della Fed come Volcker, 81 anni, come uno in grado di, uno che è stato, ha lavorato anche per Reagan, per dire una cosa, come uno che potrebbe risolvere, che dovrà risolvere i grandi problemi dell'economia americana, e certamente non è una novità da questo punto di vista. Primo ascoltatore della serata, Marco da Milano. Buonasera. Marco, mi sente? Dica. Sì, buonasera. Volevo fare un intervento su, su Francesco Pionati, perché l'ho trovato veramente incredibile. Il primo fatto, perché come si possa dire, io faccio un cambiamento senza rete, un intervento senza rete, perché al massimo ritorno a fare il giornalista alla RAI, quindi dove sia senza rete non riesco a comprendere. E secondo, mi piacerebbe sapere quale sia l'obiettività di un giornalista che è stato portavoce di un partito, è iscritto a un partito e va avanti a far politica. Quando rientra in RAI, quando lo sentiremo al TG1, mi piacerebbe capire quale sia la sua obiettività. Questo non in polemica al giornalista specifico, perché i casi sono anche quelli di Marrazzo, della Gruber, di Santoro, di Badaloni. La ringrazio Marco. Lei pone un problema del passaggio che si era posto finora solamente per i magistrati, per esempio, da un mestiere all'altro. La ringrazio. Massimo, sempre da Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Niente, il mio intervento era questo, riguardando appunto Pionati, non c'è parlamentare che ha abbandonato l'UDC. Mi viene un sospetto proprio, magari lei potrà fare un'indagine, diciamo, che non è che facendo un partito, comunque un gruppo partitico, lui prende in qualche modo dei contributi dallo Stato. Cioè, io ho letto tutti i libri di Antonio Stella, per cui magari sono troppo sospettoso, però... No, guardi, fondando l'Alleanza di Centro, così si chiama questa piccolissima formazione, e qui già c'è una perversione secondo me, perché, ripeto, me l'ho chiesto anche a Pionati, non è che si può uscire da un partito per andare fondamentalmente in un altro, anche se lui lo nega, creando una piccola formazione. È successo pure a Follini, ha creato l'Italia di Mezzo, però adesso nel Partito Democratico la stessa cosa accadrà per Pionati tra qualche mese, no? Sì, però ecco. Non prendono, però questi piccoli movimenti non è che prendono del denaro. Sì, io diciamo, poi se posso fare ancora una velocissima due battute, la prima è questa, no? È che se fosse una legge elettorale seria, quando un parlamentare che ha preso i voti dai cittadini per una certa idea politica, diciamo, si dimette o cambia, dovrebbe dimettersi e dovrebbe affrontare le elezioni di nuovo. Lui si può ricandidare con la sua formazione, se prenderà i voti i cittadini voteranno. Questo è un tema più interessante. Ripeto che nemmeno nel caso di collegi uninominali, però con voto diretto, se uno cambia partito non è che si debba dimettere. Ed è un caso in cui il rapporto tra elettore ed eletto è molto più stretto. Arrivederci Massimo. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Infuoca insomma la polemica sulla social card, anche se bisogna sottolineare una cosa: come oggi titola un quotidiano, le prossime tredicesime saranno più o meno sul modello Visco. Berlusconi infatti ha gettato la spugna nel suo confronto che c'è stato con Tremonti: non ci sono i soldi e super tasse, dunque come nel 2007 sul modello di Visco. Cosa è successo in quel concorso maledetto di qualche giorno fa a Milano? Se ne parla ormai su tutti i siti internet, testimonianze, l'intervento di Alfano, un servizio del 21 di novembre da Studio Aperto. Arrabbiatissima come tanti altri colleghi, perché siamo a un concorso in magistratura e la legalità dovrebbe essere sovrana. Se un sorvegliante, se io segnalo questa cosa, mi viene a dire si faccia i fatti suoi, è una vergogna. Accanto ai codici regolari, anche manuali non consentiti sono stati trovati sui banchi nelle aule della Fiera di Milano, dove migliaia di candidati aspirano a uno dei 500 posti da magistrato. Insomma, manuali che non devono essere lì, controlli che ci sono stati e non ci sono stati, gente che ha copiato, testimonianze che ormai fioccano. Il ministro Alfano non è che ha detto che il concorso va rifatto, perché ci sono delle procedure in corso, però ha detto che chi ha copiato non potrà più presentarsi. Giovanni da Milano, buonasera. Sì, buonasera Giuseppe Cruciani. Io dica. L'ascolto sempre volentieri, perché lei è un antidoto alla demagogia e so che ha un grande amore per l'Abruzzo. Dica Giovanni. Vada al sodo. Io ero uno dei candidati, mi trovavo nella sala AL, dove sì. Non ci sono stati molti problemi. I problemi ci sono stati nel settore MZ. Sì. Perché chiamano e testimoniano sui siti, raccontano sui siti, soprattutto quelli che sono stati nel settore AL di quel concorso e non quelli che erano nella sala incriminata? Ha una spiegazione lei, Giovanni? Perché chi era in regola è stato penalizzato il primo giorno, perché io sono andato alle 8:15 sì. E ho dovuto aspettare le due per la dettatura della traccia. È chiaro che uno arriva stanco poi nel pomeriggio, nel momento di maggiore sforzo per compiere l'elaborato. E quindi noi non vedevamo tutto quello che succedeva, quello che diceva il presidente, che probabilmente stava nell'altro settore MZ. Poi questo presidente non era molto all'altezza della situazione, perché si è fatto prendere la mano dalle proteste di chi diceva che c'erano questi codici commentati, però siccome i controlli si possono fare in qualunque... Ma questi codici c'erano, Giovanni? Questi codici c'erano? Probabilmente sì, io non li ho visti, probabilmente c'erano dei codici irregolari. Ma insomma, secondo lei il concorso com'è stato? Adesso per andare al sodo, Giovanni, il concorso è stato truccato, è stato irregolare, è stato gestito male, com'è stato? È stato gestito male, ma non è da rifare, cioè non è assolutamente da... Dunque tutti questi codici annotati che non si potevano portare non c'erano, secondo lei? No, c'erano. E allora un po' di irregolarità ci sono state. Intanto Mario Di Carlo, che è l'assessore della coda alla vaccinara, alle politiche abitative della regione Lazio, sta parlando a Red, che è la televisione da Lemiana. Sentiamolo per un attimo. Di autobus, di sta, di vigilini, di multe. Tutte robe tutt'altro che agevoli. Diciamo che di interessi, no, che sono la radice dell'affermazione che sono l'assessore alle sfiga. Quindi non c'è nessuna relazione tra il mio impegno da amministratore e i rifiuti. Perché imboscata? Lei proprio si è trovato praticamente in televisione con questa frase, non aveva sentore del fatto che potesse essere finita. Insomma, si capisce anche, credo nella mia vita, di avere rilasciato un migliaio di interviste, anche in televisione. E se lei ne trova una con, diciamo, una parolaccia, io la pago. Quello era un colloquio privato con una persona che io conoscevo da 20 anni, con la quale avevo un'affinità sul campo del quale c'eravamo occupati, perché lui era il responsabile ambiente del PDUP, prima, poi il partito di unità proletaria, insomma, da cui proviene Di Carlo. Tempi della cosa. E va bene, insomma, ricordate la storia della coda alla vaccinara, dell'intervista rubata da Report, eccetera, eccetera. Va bene, andiamo allora a sentire Giovanni da Milano, sempre all'800240024, che ha partecipato al concorso di Rho, era nell'altra sala, quella meno incriminata, però in sintesi, Giovanni, voglio capire da lei, dov'è il trucco? Perché si parla di concorso truccato? Me lo dica in un minuto e poi passiamo agli altri ascoltatori. Perché è possibile che qualcuno magari si sia messo d'accordo col personale di controllo dei testi e delle pubblicazioni per farsi timbrare anche qualche codice commentato. D'altronde il personale non era molto preparato, perché poi aveva un elenco di testi ammessi, un elenco di libri e codici vietati, e se uno portava un codice che non era né nella lista degli ammessi né degli esclusi, quelli andavano in crisi. Personale un po' non era preparato, ed è possibile che qualcuno si sia messo d'accordo per far passare dei libri non consentiti. C'è qualcuno che ha copiato, poi, sicuramente sì, ma d'altra parte succederà in ogni concorso che si copia, no? Non è che... Quando in una sala ci sono 5.000 persone e chiaramente i banchi non sono molto distanziati, può succedere, però va messo in conto. Però tenga conto che questo era un concorso da 500 posti. Lei quante volte ci ha provato? È la prima volta che lo faccio. Ha qualche speranza? Ma non si dice per scaramanzia. No, sarà d'accordo però, Giovanni, al di là del fatto che immaginare il futuro di questo concorso, verrà annullato, non verrà annullato, eccetera, che l'organizzazione di un concorso importante, il concorso per magistrati in Italia, un concorso che dovrebbe essere, al di là di ogni dubbio, organizzato in maniera perfetta, lascia e ha lasciato molto desiderare, o no? Questo senz'altro, io allora, se posso fare una proposta, proporrei la regionalizzazione del concorso in magistratura, nel senso che se una regione, tipo la Sicilia, ha un fabbisogno determinato di magistrati, si fa un concorso specifico per chi sceglie di andare in quella regione, attualmente è così per il Trentino Alto Adige perché c'è la prova di tedesco, sì. E essendoci un numero più ridotto di partecipanti, è anche più facile fare i controlli. Più controllabile, certo. La follia di un concorso in cui vengono da tutta Italia con le spese, eccetera, eccetera, anche lei avrà fatto dall'Abruzzo fino a Milano, naturalmente, fino a Rho, dunque albergo, treno, aereo, quello che è una follia tutta italiana. La ringrazio. Giovanni, andiamo a Pistoia da Franco. Buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io volevo innanzitutto complimentarmi con Pionati per la scelta di uscire dall'UDC per orientarsi verso il centrodestra. È il primo ascoltatore che elogia Pionati, sono arrivate selve di insulti, di raffiche. Io come lettore DC e come lettore UDC dopo, sì, la scelta l'ho fatta 6 mesi fa. Quando Casini ha deciso di andare da solo, ho detto anche io vado da solo, però vado da solo da un'altra parte, perché la vedevo una scelta assurda. Cioè i democristiani ex che sono rimasti nell'UDC, che erano rimasti nell'UDC, erano quelli e non volevano andare a sinistra, questo mi sembra più che evidente. Quindi per non correre il rischio di ritrovarsi lì a fare il solito col piede su due staffe, il solito proprio democristiano, per parlare chiaro, preferisco essere sicuro di non finire a sinistra, andare subito direttamente a destra. Quindi la scelta sua arriva in ritardo, però Nel 2008 non è che le elezioni sono state 100 anni fa, ad aprile uno ci poteva pensare prima, senza poi spiegare le giravolte, le cose eccetera. Se le elezioni fossero andate in un altro modo, forse Pionati non avrebbe fatto adesso questa scelta. Questa è la mia impressione, l'abbiamo sentito tuonare contro Veltroni, contro Berlusconi, la dignità del centro. Adesso non si parla più di dignità del centro, questo è sicuramente un tema, no Franco? Guardi Cruciani, che anche Casini reggerà e reggerà, però una scelta la dovrà fare, e molto probabilmente la sua scelta, perché gli ripeto, gli elettori che sono rimasti sono, sì, di centro-destra, non di centro-sinistra, dovrà per forza convergere a destra. Questo secondo me... Vedremo Franco, la ringrazio. Sentiamo ancora l'assessore delle code alla Vaccinara. Io penso di essere... Io quando mi hanno chiesto di occuparmi di questa cosa, che non ho chiesto io, me l'hanno chiesta perché noi stiamo in una fase molto delicata. Noi possiamo chiudere, il Lazio è l'unica regione nella storia di questo paese che ha rinunciato al commissariamento ed è passata... Francesco da Bologna si sta parlando della politica del Lazio sui rifiuti, discorsi molto fumosi. Andiamo a Bologna allora da Francesco, prego. Pronto, buonasera. Innanzitutto, buonasera. Niente, no, io volevo intervenire sulla questione della social card. Sì. E mi sembra francamente di cattivo gusto, perché a parte la cifra che è molto bassa, io pensavo che insomma si sarebbe potuto fare di più, visti che comunque i soldi... C'è anche il bonus per le famiglie, c'è anche l'una tantum per le famiglie, fino a, insomma, sì, con diversi, sì, scaglioni, diverse cose, sono inutile entrare nel dettaglio, non è che ci sia solamente la social card. Però io una domanda, per chi la considera umiliante, e lei mi sembra che la consideri umiliante... Sì, esatto. Ecco, io non... Se uno non ne usufruisce, se non rientra in quella fascia, secondo me non dovrebbe utilizzare certe... Se mi chiama qualcuno che dice io ho diritto a questa social card e la trovo per me umiliante, io ci sto. Però io non la utilizzerò perché non rientro evidentemente in quei parametri. Lei non la utilizzerà. Come si fa a chiamare una cosa di questo tipo umiliante? Ma forse ha ragione lei in questi termini, forse il termine non è proprio corretto. Però... Non lo so, è una domanda, non era un'accusa a lei, per carità. No, certo, però ecco, io provo, nel senso, semplicemente perché provo a mettermi nei panni di una persona indigente che deve esibire questo attestato di indigenza ogni volta che va a fare la spesa. O, tra l'altro la trovo anche poco utile, nel senso che, a mio modesto parere, per quale motivo bisogna costringere queste persone a certi tipi di spesa, nel senso che la social card, da quello che ho capito io, ma forse mi sbaglio, serve solo per fare la spesa o pagare delle bollette, ma se uno invece ha bisogno di vestiti, perché... Insomma, per quale motivo vincolare così i consumi? Non la trovo razionale, ecco. Poi va bene qualsiasi cosa, però quella cifra mi sembra veramente molto bassa. Uno che guadagna così poco, insomma, 40 euro. 40 euro al mese è una cifra bassa. La ringrazio. Grazie. Luca da Vicenza. Buonasera Luca. Sì, buonasera. Dica. niente, io contrariamente al radioascoltatore che è intervenuto prima, considero la social card una cosa utile, nel senso che se non sbaglio hanno diritto le persone che hanno un reddito fino a 6.000 euro annui, che diviso per 12 mesi fanno 500 euro al mese. Dunque, se uno è abituato a vivere con 500 euro al mese, 40 euro sono quasi il 10% in più. Sì, in realtà non c'è solamente quella categoria di cui parlava lei, ci sono dei requisiti per gli anziani, dei requisiti per le famiglie con i figli, ci sono diversi requisiti naturalmente. Sì, sì, sono d'accordo, però la morale qual è? Che se una persona, suo malgrado, è abituata a vivere con 500 euro al mese, 40 euro gli fanno comodo veramente. Cioè, una persona che prende 3.000 euro al mese, se gli aumentassero lo stipendio del 10%, 300 euro è una cifra già considerevole, però è abituato a spenderli 3.000 euro al mese, mentre uno che ha 500 euro al mese a disposizione, i 40 euro sicuramente li fa fruttare. Capisco che da persone normali è una cifra ridicola, però secondo me non è ridicolo. Ecco, questa era la mia... La ringrazio. Leggo oggi, tra l'altro, sul Sole 24 Ore che in America provvedimenti simili, poi naturalmente strutturati in modo diverso per redditi diversi, non si possono fare paragoni di questo tipo, il Food Stamp Program già iscritti in 30 milioni. Eccoci qui, un ascoltatore mi scrive: seguendo la linea che può esprimersi solo chi usufruirà della social card, si può concludere che nessuno può più esprimersi su nulla. È molto spiritosa questo sms dell'ascoltatore, però io dicevo semplicemente che utilizzare parole come umiliante, poco dignitoso a proposito della social card, e sono cose che ho letto in queste ore, tra ieri e oggi, sui giornali, secondo me è un po' troppo. Non è che non ci si può esprimere sulla social card, figuriamoci, però utilizzare certi termini da parte di chi sicuramente non utilizzerà questa tessera, che poi chiamiamo social card, invece una carta acquisti, mi sembra un tantinello esagerato. Poi uno la può pensare in tutti i modi. Con grande piacere ospitiamo Sebastiano Messina, giornalista di Repubblica. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui, che ha scritto un libro, anzi ha raccolto i suoi bonsai dedicati a Berlusconi in un libro uscito per Rizzoli in questi giorni. Esce domani o oggi? È uscito oggi Il Presidente Bonsai. Io, non perché Sebastiano Messina sia qui, ma è una delle mie letture preferite la mattina quando prendo i giornali, perché si è un po' trasformato. Bonsai è sempre stato qualcosa al margine tra la cronaca e la comicità. Beh sì, diciamo che ha sempre cercato di avere una vena satirica, di riuscire a cogliere gli aspetti più paradossali, quindi al limite della comicità, questo è vero, però è una caratteristica che ha avuto sin dall'inizio. Assolutamente, quella di dedicare, l'idea di dedicare un libro come raccolta a tutti i bonsai su Berlusconi, non può essere definita un po' ossessiva? Questa, l'ossessione di Berlusconi ha preso anche lei? No, in realtà l'idea me la diede qualche tempo fa un lettore, che dicendo che lui aveva raccolto tutti i bonsai su Berlusconi, mi mandò un fascicolo con tutte le fotocopie dei miei bonsai che avevo fatto in questi anni su Berlusconi, e mi disse che lui li stava collezionando in questo modo. E quindi poi ne abbiamo parlato con Arizzoli e è venuta l'idea di fare un libro. La chiave del berlusconiana, secondo me, è attuale in questo momento, perché al suo terzo mandato di capo del governo, Berlusconi forse può essere in qualche modo raccontato non solo attraverso le iniziative politiche, le cose che lui ha fatto in questi anni, ma anche attraverso le sue gaffe, le sue lapsus, i suoi tic, tutti i suoi scivoloni, le sue barzellette, e cioè quelle cose che poi alla fine messe insieme ti aiutano a capire il personaggio. Direi di sì, e vorrei commentare l'incipit dell'introduzione, perché mi pare originale. Quello che molti dei suoi avversari non hanno ancora capito è che criticare Berlusconi non è impossibile. È inutile. Perché? Perché l'unico modo perché ormai ha ragione Moretti, Nanni Moretti, la vera vittoria di Berlusconi è stata quella di convincere gli italiani, o buona parte degli italiani, che è assolutamente normale che in questo paese, o in un paese democratico, il capo del governo sia contemporaneamente il padrone e il patron di un impero mediatico come quello di Berlusconi. Ora, quando uno governa e contemporaneamente può contare su una potenza di fuoco di 3 reti televisive, una grande casa editrice, giornali, settimanali, eccetera, eccetera, ecco, questo è un modo per falsare la democrazia, quindi la normale critica politica non si può esercitare nei termini corretti. La satira riesce a fare, non dico a colpire il personaggio, ma certamente in qualche modo a rompere quella pagina dorata di cui lui ama ricoprirsi. Ecco, però l'inutilità della critica di Berlusconi, lei dice, perché ha sempre ragione lui, cioè anche se fa delle gaffe, anche se commette degli errori, c'è sempre una giustificazione, no? Ma non è che ha sempre ragione, lui alla fine convince tutti, utilizzando tutti gli strumenti di cui dispone, che ha ragione lui, ha vinto lui. Cioè, per esempio, l'ultima, la gaffe clamorosa, la gaffe mondiale che ha fatto su Obama, definendolo abbronzato, non è che lui ha detto, beh, vabbè, ho esagerato, ho detto una cavolata, non è quello che volevo dire. No, lui ha insistito, perché ha dovuto teorizzare che dire abbronzato ad una persona di colore è un complimento, e l'ha pure esteso a Naomi Campbell. Quindi allora dobbiamo riesaminare il problema della razziare alla luce di questo nuovo concetto, l'abbronzatura. Quindi, per esempio, dobbiamo riconoscere che in Sudafrica hanno il problema dell'abbronzaid e non quello dell'apartheid. Insomma, è un modo un po', clamorosamente presuntuoso di guardare non solo al mondo di oggi, ma anche alla storia del mondo. Grazie a Sebastiano Messina, grazie di essere stato con noi. 19:50 800 24 00 24. Andiamo a sentire altri ascoltatori, naturalmente, mentre imperversa su Red l'uomo del Coda alla Vaccinara, Mario Di Carlo, assessore alla casa alla Regione Lazio, dimissionario dopo report non dalla carica di assessore, bensì dalle deleghe che pare che non ci siano nemmeno sui rifiuti. E allora Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera, dica. Volevo fare un intervento sulla social card. Tutta questa polemica sulla non ottimale, appunto, presentazione di questa social card, la quale mette un vessillo a tutti coloro che la utilizzano. Io lavoro nella grande distribuzione, cioè siamo coloro che andranno ad accettare questa social card, e in questi giorni ci sono arrivate tutte quante le modalità operative e quant'altro. Io vi assicuro che questa social card è esattamente come un bancomat, si presenta esattamente come un bancomat, si dà alla cassiera come un bancomat, tant'è vero c'è addirittura il logo di un noto distributore, e si paga praticamente come se uno pagasse con il bancomat. Addirittura paghi 20 euro, 10 li paga con la social card e le altre 10 li paga in contanti. Cioè, non necessariamente viene identificato come il povero, ecco, arriva il povero a pagare. Esatto, e soprattutto la seconda cosa, stiamo chiudendo la contrattualistica in questi giorni tra la grande distribuzione, appunto, e il governo, dove il passo successivo della social card sarà dare degli sconti, cioè tutti coloro che pagano con la social card avranno diritto a uno sconto, che il governo chiede il 10, la grande distribuzione sta offrendo il 5, magari si metteranno d'accordo sull'8, però comunque chi paga 100 euro, 8 euro di sconto. Scusi un attimo, Alessandro, lei ha detto stiamo concludendo, perché lei si sta occupando di questa cosa? No, assolutamente, c'è la fede del distributore. Ovviamente in mezzo ci sono tutti quanti gli organi posti tra il governo e la grande distribuzione. Io la seguo in quanto, appunto, tutte le modalità operative ci arrivano quotidianamente, tutti quanti gli aggiornamenti sul programma. Comunque la mia idea è che, adesso non so se chiuderemo al 5 o chiuderemo al 10, però comunque sia, il passo successivo su questa social card sarà appunto avere degli sconti per quanto ci riguarda sulla grande distribuzione, quindi sugli alimentari, sì. Ma gli stessi sconti saranno anche sull'energia elettrica. E dunque, quando qualcuno parla di umiliazione, di dignità che viene meno da parte di chi si presenta, oggi ho letto un articolo molto bello, come al solito, di Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa. È molta disinformazione, perché non l'hanno neanche vista, perché tra l'altro l'hanno anche fatta vedere, l'hanno proprio presentata fisicamente, e chiunque l'ha vista ha notato che è una carta di credito di colore azzurro con il logo di una banca, di un emittente di banca, e si presenta come una carta di credito, cioè non c'è una documentazione ulteriore da presentare alla carta di credito, quindi la cassiera riceve questa carta, o paga tutto con la carta, oppure quota parte, e passa al cliente successivo. Va bene, la ringrazio. Massimo da Roma, buonasera Massimo. Buonasera. Dica. Volevo anch'io dire qualcosa sulla carta sociale, ma non tanto sullo strumento, sulle modalità di assegnazione. Perché per l'ennesima volta la famiglia di fatto viene penalizzata, nel senso, quando si tratta di poter avere qualcosa dallo Stato, allora si fa la somma dei redditi di marito e moglie. Magari il marito non ne ha diritto e la moglie sì, e invece si fa la somma e non ne ha diritto nessuno dei due. Quando si tratta di pagare le tasse, non si può applicare il quoziente familiare, quindi ognuno paga le sue tasse, penalizzando ovviamente chi ha un reddito più alto. Non so se è chiara la questione. Sì, guardi, la tessera acquisti, la carta sociale, chiamiamola come vogliamo, è indirizzata, poi si può dire... È sbagliato come strumento, non serve a nulla, eccetera. Però non c'entra niente con tutte le cose: il quoziente familiare, il bonus alle famiglie che verrà deciso al Consiglio dei Ministri domani. È una cosa completamente diversa. Sì, ma le modalità di assegnazione penalizzano le situazioni di marito e moglie che insieme superano il limite. Ma guardi, io leggo oggi: con figli sotto i 3 anni cittadini e residenti in Italia, nel caso di più figli sotto i 3 anni gli accrediti si sommano, proprietari di una sola abitazione, titolari di una sola utenza elettrica, uso domestico, insomma ci sono una serie di criteri. Perché lei dice che la famiglia viene sempre penalizzata? No, dico viene penalizzata rispetto a quando c'è da pagare le tasse, che invece si fa, non si fa la somma e si divide per due, come fanno in tanti altri, sì, per esempio sì, la Francia, sì. E quindi si pagano tassi inferiori nel caso in cui bisogna pagare. Nel caso in cui invece bisogna ricevere, si mettono insieme i redditi. Ad esempio, se mia moglie avesse teoricamente lei una pensione sotto i 500 euro, sì, ho capito. Avrebbe diritto. Si sommano con i miei, che invece io fortunatamente ce l'ho un po' più alto, e quindi non ce l'hanno. Non so se è chiaro. Bisognerebbe fare le cose in un verso e nell'altro allo stesso modo. O si tiene conto della famiglia come un'unità in sé in ogni caso, oppure si tiene conto dei singoli componenti ognuno per sé. Sì, ho capito Massimo, ma questo fa parte della schizofrenia del nostro paese. Lei sa bene che per introdurre il quoziente familiare è stato fatto un calcolo di quanto costerebbe, cioè un sacco di soldi, cioè lo Stato, e non è questo il momento per introdurre il quoziente familiare, dunque rivoluzionare il modo di imposizione fiscale, sarebbe costretto a sborsare un bel po' di quattrini, perché naturalmente ci perderebbe lo Stato, no? È evidente. La ringrazio Massimo, andiamo a sentire un ascoltatore da Bari. Vito. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è la prima volta che chiamo. Sono un po' sì, si sente perché c'ha alla radio col volume alto e dunque la sua voce arriva un po' disturbata. Adesso mi sente bene? Sì, dica. E niente, volevo parlare per quanto riguarda la questione dei pianisti, perché ascoltandovi questi giorni in radio, vi ascolto da un pezzo, ieri sono rimasto un po' stupefatto dal parlamentare che diceva che è seduto ai primi banchi e non ha bisogno di dare le impronte digitali, perché è giusto, dico bene? Ecco, sì. Mi sembra alquanto, cioè, vergognoso parlare di queste cose dei parlamentari, che dovrebbero semplicemente fare il loro dovere e basta. Fini ha proposto una volta la sedia con il sensore che dopo determinati chili va in azione l'aggeggio lì per le votazioni. Mi sembra veramente, non mi sento rappresentato proprio. Mi sento Ma guardi, Vito, lei ha ragione. A me sembra già folle che uno debba concepire un metodo elettronico per controllare la presenza. Credo che accada solo in Italia, e dunque spendere 500.000 euro, una cosa di questo tipo. Però una volta che si è deciso lo si faccia, ed è assurdo che ci sia qualche deputato che si vuole sottrarre all'identificazione delle impronte digitali. TG5. 125 morti, oltre 300 feriti nei 10 attacchi terroristici simultanei a Mumbai che durano da 24 ore. Colpiti alberghi, ristoranti, la stazione, un ospedale. Un italiano ucciso da una granata, era con il figlio. Blitz delle forze speciali indiane ancora in corso per liberare gli ostaggi. 7 italiani ancora dentro un albergo, preso d'assalto. Tra loro c'è anche una bambina. La rivendicazione di un gruppo islamico. I terroristi, tutti giovanissimi, arrivati dal Pakistan. Il ministro Frattini, la firma è di Al-Qaeda. Cercavano gli americani e i britannici. Unanime lo sdegno e la condanna. Titolo unico, credo anche per il TG1, sentiamo. Il terrore del fondamentalismo islamico colpisce Mumbai, cuore economico dell'India. 10 attacchi coordinati contro alberghi, ristoranti ed una stazione ferroviaria hanno sconvolto l'antica Bombay. Il bilancio, almeno 125 morti e più di 300 feriti. Tra le vittime anche un imprenditore italiano, Antonio Di Lorenzo. Ancora in corso il blitz delle forze di polizia contro i terroristi all'hotel Oberoi Trident per liberare gli ostaggi. 200, tra cui 7 italiani, anche una bambina. Gli attentati sono stati rivendicati da un gruppo estremista islamico fin qui sconosciuto, i Mujahideen del Deccan, dietro cui gli esperti riconoscono la mano di Al-Qaeda. E la paura rimbalza negli Stati Uniti. Dopo le minacce contro la metro di New York, l'appello del Papa e la condanna del mondo, il presidente Napolitano contro il terrorismo, risposte politiche efficaci. Più o meno simile al TG5, sentiamo anche la 7. 125 morti e più di 300 feriti nell'attacco jihadista negli alberghi di Mumbai. Tra le vittime c'è un italiano, ma l'esercito indiano non è ancora riuscito a fermare l'assalto. I terroristi da 24 ore tengono in ostaggio 200 turisti, 7 di loro sono italiani. L'attentato rivendicato da una inedita sigla islamica. Il mondo in apprensione, il governo indiano e il nostro 11 settembre. Commercio lancia l'allarme sulla gelata di Natale, le spese per regali e cenoni caleranno rispetto al 2007 e chi potrà metterà da parte una quota crescente di tredicesima. Commercianti ed artigiani insistono per detassarla e chiedono al governo aiuto per il credito bancario. Il 70% dei comuni a rischio di frane, lo sostiene un dossier di Legambiente. Intanto la Protezione Civile annuncia per il fine settimana pioggia e neve, prevede il nord, rischia la paralisi dei trasporti. Dopo la Champions è serata di UEFA sulla 7, tra poco in diretta dallo stadio di Marassi. Bene, andiamo all'Aquila. Riccardo, buonasera. Buonasera Luciani, complimenti per la trasmissione. Dica. Una battuta rapidissima soltanto sulla questione dei pianisti alla Camera. Perfettamente d'accordo con lei sul fatto che un'iniziativa del genere oramai messa in cantiere non ammette che questo tipo di dissensi fatti da alcuni per ragioni di privacy lasciano uscire sconfitte le istituzioni da questa vicenda. Invece io sono uno dei candidati del concorso in magistratura che la settimana scorsa ha partecipato e volevo semplicemente dire che, per carità, posso essere d'accordo con moltissimi degli interventi che sono stati fatti, perché la situazione di illegittimità che si è verificata il primo giorno, il mercoledì, sicuramente era fuori luogo, a maggior ragione per un concorso in magistratura dove uno crede di essere nel tempio della giustizia e l'eguaglianza. Però nello stesso tempo vedo che in questo momento si sta tentando, anche da parte di alcuni miei colleghi, di strumentalizzare eccessivamente questa vicenda, anche per ragioni di tornaconto, a mio avviso, personale. Cioè, in che senso? Mi spieghi. Capiamoci, infatti, non tornaconto personale nel senso che qualche collega vorrebbe pilotare la vicenda a proprio favore, bensì del fatto che si tratta di situazioni le più diversificate. Ora, io immagino che ognuno di noi ha avuto sgomento nel vedere il primo giorno questi codici annotati, libri e quant'altro, chi li ha visti, e nello stesso tempo nel vedere la Commissione reagire, non magari con un controllo capillare come tutti colleghi avevano chiesto, ma con un controllo semplicemente a campione. Però devo dire che nei giorni successivi, secondo me, c'è stato un atteggiamento, anche considerato quello che era accaduto, certamente, però c'è stato un atteggiamento da parte di tutto lo staff che si occupava del concorso, tale, secondo me, da recuperare gran parte della legittimità perduta all'inizio. Senta, lei dove si trovava? Nella zona AL o MZ? MZ è quella MZ, più incriminata. Dunque MZ, quella MZ, più incriminata. Ho visto io stesso, però insomma. Cosa ha visto, Riccardo? Cosa ha visto? Ho visto i codici. Due codici annotati. Due codici annotati? Riconoscibilissimi su un banco, riconoscibilissimi su un banco nel quale ancora non veniva collocato il candidato. Sono stati immediatamente sequestrati, per carità, per quello non c'è nulla da dire, a mio avviso. C'è chi dice in realtà che questi sequestri non ci sono stati, che qualcuno ha potuto continuare per tutta la mattinata e poi anche il giorno successivo a utilizzare questi codici. Guardi, io non ne ho le prove, almeno non ne ho la prova provata dal mio sguardo. Io ho visto che quei due codici, un codice civile e un codice penale, annotati, sì, e dunque proibiti, no? Candidato sono stati ritirati, tant'è che questo candidato si è seduto perché giustamente è legittimato a svolgere la prova in quanto non li aveva utilizzati a dettatura fatta, sì. Queste sono cose che sono accadute prima della dettatura delle tracce, anzi molto prima, perché quel giorno si è cominciato veramente tardi, siamo usciti alle 10 di sera. Nello stesso tempo non ho visto persone utilizzare questi codici, non possiamo avere la prova che questi codici non siano stati utilizzati, perché non è che tutti. Ho capito, Senta, un'altra cosa, Riccardo, è stata rilanciata da alcune agenzie sui siti internet la testimonianza di qualcuno che ha copiato. A me non sembra qualcosa di particolarmente originale, mi sembra abbastanza scontato che questo accada, o no? Sì, diciamo che nei concorsi in cui vi è un controllo molto stringente, diciamo che dovrebbe essere particolarmente difficile copiare. E invece in questa occasione? Non è accaduto, no, il controllo devo dire che, certo, non è che per tutte le 8 ore fosse dello stesso tenore, però era comunque certamente accettabile. Io ho sostenuto molti concorsi pubblici, sociali, qualcuno l'ho vinto, qualcuno no. Che mestiere fa lei, Riccardo? Che mestiere fa? Sono impiegato statale, diciamo. La ringrazio, di questa testimonianza. Domani se ne occuperà viva voce a partire dalle 9, lo dico anche a lei, ma a chi ci sta ascoltando, con varie testimonianze ancora e interventi di specialisti. Ci sarà anche Luciano Violante. Andiamo subito con gli altri ascoltatori. Riccardo da Bergamo, buonasera. Buonasera. Prego. La sento. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda il concorso del magistrato. E io non ho partecipato al concorso dei magistrati, ho partecipato a più concorsi pubblici sia a livello nazionale che a livello locale. E devo dire che mi ricordo il mio primo concorso pubblico da segretario comunale nel 1992, che nell'estate romana io in magliettina mi trovai con la gente con il paltò all'ingresso del concorso. Non riuscivo a capire, poi quando ho visto che erano tutti rigidi e quando sono entrati sono usciti dalle doppie fodere tutti i manuali, ho capito per cosa servivano i paltò in piena estate. Ma che concorso era quello, Riccardo? Era segretario comunale, sì. Perché i grandi concorsi, 11.000 candidati per 100 che posti, eccetera, eccetera. Ma il discorso che vi voglio fare non è quello del copiare, perché alla fine sarà sempre più difficile riuscire a non far copiare. Quello che vi voglio dire invece è che secondo me i concorsi che si fanno per magistrati, come per tutti i concorsi pubblici, non si deve valutare la conoscenza della materia. Per quello la laurea ha già detto che noi abbiamo studiato diritto, giurisprudenza, dottrina, eccetera, eccetera. Quello che il concorso per magistrato deve valutare è se uno è capace di fare il magistrato, non se sa la legge. Quindi io abolirei il divieto di portare tutto il materiale, perché il magistrato quando lavora non lavora con i commentati nascosti, ma i codici commentati giustamente li ha in mano. Può leggerli, può studiarli e con quel materiale che ha in mano, che è tutto conoscibile, diventare la cosa migliore, cioè mettere le sentenze migliori, fare le indagini migliori. Sì, no, Riccardo, ma certamente le cose che lei sta dicendo sono ragionevoli. Però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Lei dice che bisognerebbe cambiare completamente il concorso in magistratura e la conseguenza sarebbe anche evitare questo assembramento di persone intorno a Milano, il concorso unico, i viaggi, eccetera, eccetera, e poi cambiare anche il modo di fare il concorso. Sono d'accordo, ci vogliono altri criteri che non sono solamente quelli che vengono utilizzati adesso per giudicare se uno può fare il magistrato, criteri che comunque sarebbero sempre anche quelli sbagliati, potrebbero essere sbagliati anche quelli. Non c'è un sistema perfetto per giudicare se uno sa fare bene il magistrato o meno, eh. Certamente i modi che sono utilizzati adesso, il modo che c'è adesso per fare i concorsi con le materie, eccetera, eccetera, la traccia, mi sembra quello meno significativo per capire se uno può fare il magistrato. La ringrazio. Paolo da Milano, buonasera. Pronto? Dica. Buonasera. No, circa quanto riguarda la carta sociale, io sono sposato con una con una americana e abbiamo due figlie che chiaramente hanno la doppia cittadinanza, italiana e americana. Noi l'anno scorso, intorno a giugno, se ben mi ricordo, ci arrivò un primo assegno di $300 da parte dello Stato americano, da parte proprio con la firma del ministro del tesoro americano, sì. E successivamente, dopo un mese, qualcosa del genere, ce ne arrivò un altro di $600, con tanto di lettere di scuse perché avevano fatto un errore, perché avevano considerato probabilmente soltanto mia moglie, non avevano considerato le nostre due figlie. Allora, noi non stiamo... Ma che tipo di aiuto era? Un aiuto di una legge del gennaio di Bush, dove a un certo punto, per far ripartire l'economia americana, veniva dato, elargito, questi $300 a persona, fino a un certo reddito. Allora, noi non siamo in una situazione di carta sociale, assolutissimamente. Abbiamo soltanto la fortuna che per la legge americana, se uno lavora all'estero, ha delle grosse detrazioni sul suo reddito. Mia moglie fa anche la carta per quanto riguarda le tassazioni in America. Però quello che mi sorprende soprattutto, come si fa a essere un presidente del Consiglio che si dice molto amico di Bush, addirittura dicendo che lui vedrete voi americani che vi mancherà questo presidente, tutto quanto, e poi un minimo di esempio dell'America noi non lo prendiamo. Però mi scusi, in questo caso non è un, al di là degli importi, in quel caso è certamente un importo più consistente, poi però bisogna vedere in tutto l'anno come lei ha detto, $300 una tantum, in questo caso sono 40 euro al mese, uno fa il calcolo, so, diventano circa 600 credo all'anno. In questo caso in realtà forse gli Stati Uniti hanno funzionato da esempio, oppure no? Sì, però quello che le volevo far capire anche, ci sono arrivati questi soldi a casa con un assegno. Sì, la diversità del metodo, sì, su questo si può discutere, però la parola umiliazione non so se lei la utilizzerebbe. Finalmente siamo riusciti a trovare il presidente della commissione di vigilanza RAI, Riccardo Villari, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera presidente, senta, oggi leggo ancora polemiche, per carità, continueranno fino a quando lei resterà presidente della commissione di vigilanza RAI, perché lei vuole restare, no? Quasi le polemiche, io cerco proprio di non farle, mi sono dato una linea che è quella di ascoltare rispettosamente tutti e di rinviare i commenti a più avanti, perché adesso non credo di aiutare l'istituzione facendo commenti o replicando. No, ma perché le polemiche non le fa lei, ho detto, le fanno gli altri. E quindi questa è una domanda da rivolgere a chi le fa, non a me. Però lei resta? Io lavoro, penso che la cosa migliore sia quella di lavorare e di produrre qualche atto, di colmare gli arretrati che c'erano, come ad esempio quello che abbiamo licenziato qualche giorno fa, che era il regolamento per le elezioni regionali in Abruzzo. Al di là della vicenda politica, che naturalmente si presta a tante interpretazioni, da un punto di vista istituzionale vorrei dirlo, perché ho molto rispetto per le istituzioni che non vanno mai rese precarie, non è che io sto lì istituzionalmente in maniera abusiva. È fatta una votazione democratica che ha dato il risultato che ha dato. Adesso politicamente, per carità, le interpretazioni sono tante, quindi io le rispetto tutte. Però questo lo dico per tranquillizzare gli italiani, che non è che lì c'è un abusivo, insomma. Lì non c'è un abusivo. Senta, lei però non si sente un po' in imbarazzo per essere un presidente, per carità, lei ancora si sente, immagino, del Partito Democratico, però votato dal PDL, non si sente in imbarazzo? Mi consenta di non commentarle queste riflessioni che io rispetto, per carità, ma comunque mi sono dato una linea che non è quella di commentare, e mi crede che qualcosa da dire ce l'avrei anch'io, no? Eh no, certo, non c'è dubbio. Il tempo è galantuomo, quindi quando sarà poi il momento sicuramente io non mi sottrarrò. Ecco, io rispondo con cortesia, come è giusto che sia, è doveroso farlo per rispetto al lavoro dell'informazione e di quanti ascoltano, insomma, perché è normale così. Né mi va di passare per quello che in qualche modo si sottrae. Ecco, l'unica cosa, la modalità del ragionamento mi riservo poi nei momenti giusti di calibrarla. Oggi lei, in un'intervista pubblicata dal giornale, rilasciata a Sabelli Fioretti, dice nel PD c'è troppo stalinismo. Che significa? No, ecco, vede, per esempio io non dico questo. ad una domanda io rispondo, anzi in qualche maniera moderando il tono anche un po' ironico dell'intervistatore, dicendo qualche venatura, ecco, quindi non troppo stalinismo, no? E qualche venatura che si... o c'è o non c'è, è troppo. E qualche venatura a chi l'attribuisce, no, al segretario? Era una battuta nel senso di voler dire che insomma ci sono degli atteggiamenti che possono stare anche in partiti diversi, insomma era una battuta, ecco, inserita in un contesto. L'intervista era, partiva dal fans club che mi divertiva, perché Stato costituito questo fans club proprio da Sabelli Fioretti, che era l'intervistatore. 1200 iscritti, non sono pochi. Quindi verteva da quello, insomma. Da rispetto al presidente, al promotore di un club, non ci si può sottrarre, insomma. Lei è anche presidente del Napoli Club Parlamento, carica che ritiene molto importante, immagino, no? No, per carità, anche questa è una cosa scherzosa. No, ma certo, carità, stiamo scherzando. 2-3 anni fa ci siamo accorti che c'erano i club della Juventus, dell'Inter, della Roma, della Lazio, insomma ci sono tutte le principali squadre. Il Napoli in punto vanta come bacino di tifoseria forse la quarta, quinta in Italia, ed è molto, ha molto seguito anche negli altri paesi, e abbiamo insieme ad altri colmato questa lacuna. È un modo per ritrovarsi insieme, per fare un po' di sport, insomma, per parlarne, per andare alla partita in maniera goliardica. Tutti insieme, insomma, per carità, con questa vicenda mi pare che non c'entri. Però... Senta, il capogruppo del partito che l'ha espulsa, alla Finocchiaro, oggi dice lei è come l'ultimo giapponese, anche questa è una battuta scherzosa, divertente. Allora, guardi, no, non è questo, non è il partito, non mi ha espulso, anche questa è un'imprecisione. Il gruppo, non il partito. Il gruppo, sì, il gruppo. Ha adottato una risoluzione, come il regolamento prevede, ed io entro 7 giorni, come il regolamento prevede, posso oppormi, insomma siamo ancora in un paese e in un gruppo democratico, grazie a Dio, quindi io mi sono opposto, sì. E quindi questa cosa sarà discussa serenamente nell'assemblea. È un percorso democratico al quale che bisogna insomma in qualche modo rappresentare agli ascoltatori con molta precisione. Lei si sente ancora dentro il Partito Democratico? Non è che io mi sento. Lei è dentro il Partito Democratico? Non solo ci sono, ma vorrei dire, vorrei ricordarlo a tutti, che questo partito giovane da un anno, con tutto il pluralismo che lo deve caratterizzare, io modestamente non ci sto nel Pantheon, però insomma voglio dire, ne sono stato forse immeritatamente comunque uno dei fondatori, quindi voglio dire, non solo mi ci sento, ma è la mia casa, ho provveduto per la mia piccola parte a costruirla, che poi ci sono divergenze, però la cosa che mi fa sorridere, me lo permette, è l'unica cosa, prego, che dico, è che, come si dice, in queste vicende, evidentemente dal momento che le interpretazioni che questa vicenda ha suggerito sono tante e diverse, quindi vuol dire che è problematica, la lettura può essere diversa, vedo che poi alla fine tutti si rivolgono esclusivamente a me, e io penso che qualcun altro anche dovrebbe fare qualche autocritica, insomma io la faccio perché ne errori ne ho fatti, però insomma ecco. Qualcun altro, chi, il segretario del suo partito? No, questo lo dice lei, io dico qualcun altro, insomma, i protagonisti sono tanti, io non mi sento l'unico protagonista di questa vicenda, ad esempio l'onorevole Di Pietro. Sì. E insomma in qualche maniera secondo il suo stile ha provveduto a diffamarmi, i fatti hanno evidenziato purtroppo per lui che non c'era né chi comprava né chi vendeva. No? Ah sì, poi quella della corruzione politica è un altro discorso, per carità, non voglio nemmeno mettere in campo queste categorie. Senta un'altra cosa, prima di immaginare che c'è qualcuno che compra, qualcuno che acquista, bisogna sapere che c'è qualcuno che vende. Dal momento che i fatti hanno dimostrato che anche nel centrodestra c'è stato qualche problema, c'è la testimonianza che non c'era alcun accordo sotto al tavolo. Senta, oggettivamente lei pensa di poter rimanere presidente della commissione di vigilanza Rai a lungo? Questa questione io non commento, l'ho già detto, e quindi non riuscirà a farmi esprimere, perché questo è un argomento troppo serio, per cui non lo voglio liquidare con una battuta, potrebbe sembrare assolutamente superficiale, quindi non, su questo non commento. Però lei ha detto non mi sento un abusivo. Non mi sento un abusivo perché lei mi rappresentava come se stessi lì. No. Politicamente lo si può interpretare, per carità, nella medida che ognuno ritiene, però ricordavo sommessamente e umilmente che comunque adesso è un fatto oggettivo, non c'è bisogno che lo dica io. Sì. Che c'è stata una votazione e un'elezione, punto. Lei per chi ha votato? In quella votazione, per chi votò? Io per Orlando, naturalmente. Anche se il voto è segreto? Ma non solo il mio. No, per carità, assolutamente. Quella è una garanzia di democrazia. molti non l'accettano, ma mi creda che è la cosa migliore. Intanto la prossima settimana ci sarà appunto l'assemblea del PD al Senato sull'esclusione di Villari, dopo quello che lei ci ha detto, dopo la procedura che lei... L'assemblea a cui lei fa riferimento è quella che ho sollecitato io stesso. Sì, è quello... Quindi ci sarà, come giusto che ci sia, secondo la procedura democratica di un partito, di un gruppo parlamentare, niente di nuovo, niente di più. Forse io mi rendo conto, sono cose che hanno importanza, come giusto che sia, anche relativa, quindi non tutti gli ascoltatori conoscono la procedura, ma basta leggere il regolamento su internet, si vede che insomma siamo nell'assoluto percorso che un partito prevede allorquando ci sono dei punti di vista diversi. Senta, però il segretario del PD, il presidente del Consiglio, il presidente del Senato e non c'è più Riccardo Villari, si è interrotta la comunicazione. Naturalmente si è interrotta non per sua volontà, voglio immaginare. Bene, 20:33, subito gli ascoltatori dopo l'intervento di Villari, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Massimo da Salerno. Buonasera Massimo. Buonasera Crociani. Dica. Una breve e veloce testimonianza. Io sono indigente, single, ho 47 anni, invalidità al 100%, ma non posso soffrire della social card. Sicuramente non le fa piacere, certamente, no? Sicuramente non mi fa piacere, era una bella iniziativa, mi avrebbe fatto comodo, anche se sono solo 40 euro al mese, ma oggi come oggi anche 5 euro sono preziosi. Lei è fuori perché? Non rientra nelle categorie previste? Nelle categorie perché non sono un pensionato con oltre 65 anni di età, al di là del reddito. È single? Non ho reddito, sono single, quindi non ho un figlio e tra l'altro io non ho reddito, sono disoccupato, però nonostante questo io non rientro nella fascia protetta, se possiamo chiamarla così. Senta, qualcuno ha parlato di umiliazione, lei utilizzerebbe questa categoria, questa parola? Questo... La utilizzerei, oggi ritenersi umiliati credo che ci sia una superbia in questo. La dignità è ben altro, se ho bisogno e c'è un aiuto io lo raccolgo, con tutta la mia dignità naturalmente. La ringrazio, Giovanni da Grosseto. Molti messaggi invece ci sottolineano che queste iniziative in realtà non producono nulla dal punto di vista di stimolo all'economia, ma non credo che questo qua voglia essere uno stimolo all'economia. Poi possiamo criticare il fatto che magari non ci sono troppi stimoli all'economia, come per esempio vorrebbe il leader dell'opposizione. Giovanni Grosseto. Buonasera a tutti e a lei agli ascoltatori. Io volevo soltanto parlare di questo social card. Io non so se si possa definire umiliante o meno, ha detto bene lei, forse bisognerebbe prima vivere certe condizioni per poter scrivere poi dei giudizi così netti. Però quello che mi ha veramente colpito tanto è sapere che in Italia ci sono 1.300.000 famiglie che vivono con questa soglia di stipendi che sono veramente impressionante. Cioè vedere il tenore di vita che facciamo in tanti, mi ci metto anch'io in mezzo, rispetto a persone che hanno 500 euro al mese, mi ha colpito veramente più dei 40 euro che hanno dato al mese, 40 euro al mese che hanno dato come, diciamo, come bonus. Cioè cos'è che l'ha stupito? Il fatto che ci siano 1.300.000 persone, che guadagnano, che percepiscono 500 euro al mese, sì, ufficialmente. La ringrazio Giovanni, poi naturalmente all'interno di questi gruppi ci saranno per davvero delle persone che prendono quelle cifre lì. I titoli del TG2, se ce li abbiamo, mandiamoli. Titoli del TG2. Si spara ancora intorno agli hotel di Mumbai in India, attaccati ieri sera dai terroristi islamici, finora 125 morti, unanime lo sdegno e la condanna. Un italiano, Antonio De Lorenzo di Livorno, tra le vittime degli attacchi, altri 7 nostri connazionali tra gli ostaggi dei terroristi, fra loro anche una bambina. Domani il Consiglio dei Ministri varerà le misure contro la crisi, ci sarà anche un bonus fino a 1.000 euro per le famiglie con reddito di 22.000 euro lordi. La Protezione Civile lancia l'allarme per il weekend, ondata di violento maltempo, previste nevicate diffuse anche in pianura, soprattutto al nord, a rischio strade e autostrade. Fermate 68 persone che rifilavano pacchi sull'autostrada Bologna-Rimini, offrivano computer a prezzi stracciati, ma una volta a casa si scopriva che il contenitore era pieno di sale e di cartone. Beh, mi stupisco ancora come ci possono essere tecniche di questo tipo che risalgono agli anni 80, mi ricordo in un casello autostradale, anzi in una stazione di servizio della Roma-Napoli, ci fu poi un'operazione della polizia, insomma c'erano delle bande soprattutto al sud specializzate in questo e ancora evidentemente esistono. Antonio da Napoli, prego, buonasera. Buonasera a tutti, volevo porre qualche quesito circa la social card, che sembra essere un'operazione che fondamentalmente favorisce il lavoro a qualcuno, ma non garantisce, voglio dire, un'equa divisione di ciò che si vuole dare. A parte che lavoro a qualcuno, carte, chi, mi scusi? Ma a chi dovrà stampare le carte, a chi dovrà gestirle, a tutta l'operazione, insomma, quanto costerà gestire una carta, eccetera. E poi perché favorire la grande distribuzione e non estenderla a tutti, ecco. Perché magari è più semplice fare degli sconti nella grande distribuzione piuttosto che nell'alimentari sotto casa. È più facile anche gestire queste carte attraverso la grande distribuzione. Non credo che sia un favore alla grande distribuzione. Di favoritismo, ecco. E poi volevo premettere che non si tratterebbe di un banco, ma di una tessera scalare, quindi anche le complicazioni inerenti alla gestione dello sconto, della spesa, voglio scalare 5 euro, però il 5% me lo fai su tutta la spesa, cioè alquanto complicato, complesso. Sì, non lo so, però questi mi sembrano francamente dettagli, Antonio. La ringrazio. Roberto, provincia di Milano. Buonasera, salve. Prego. Complimenti, giusto un intervento veloce a proposito della social card. Sì. Tutto quello che ho sentito fino adesso parla più specialmente per quanto riguarda i giornali e l'umiliazione della social card. Io volevo portare la testimonianza, io passo la mattina molto presto vicino a Milano, vicino a dei posti che distribuiscono da mangiare gratuitamente. Sì. Negli ultimi 5 mesi, anzi un po' di più forse, le persone che si trovano in fila sono passate da persone che prima erano le classiche persone che andavano a prendere il pane gratis o comunque del cibo gratis. Se uno passa adesso davanti a quelle file, trova che ci sono delle persone molto curate, dei pensionati, delle persone di 40-45 anni che si mettono in fila molto disignitosamente per andare a prendere del cibo gratuito. Al di là, io non voglio neanche entrare sul discorso se è comodo, se è stata un'operazione politica o meno. Io dico solo che parlare di umiliazione di fronte a gente che si mette all'aperto di fronte a dei posti dove vanno a prendere del cibo gratuito, e parlando con loro, perché ho avuto occasione di fermarmi, sono gente che ha lavorato 40 anni o lì vicino, e adesso non sono in grado di poter mangiare, è superato il 20° giorno, non penso che parlare di umiliazione perché debbano usare una carta tipo social card possa essere l'argomento importante della social card di sì, posto che la carta acquisti poi vada effettivamente a quelle persone lì. La ringrazio, Roberto, di questa osservazione. Riccardo da Bologna, buonasera. Buonasera dottor Crociani, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei di averci chiamato, dica. Allora, io ho sentito prima nel vostro radiogiornale le dichiarazioni del ministro Omar Bersani e le giuro che mi sono commosso, perché questo signore che adesso sta attaccando l'abbattimento dell'ICI perché l'hanno tolto anche a chi ha più possibilità, sta attaccando qualsiasi cosa che sta facendo questo governo, il signor Bersani è uno degli fautori della distruzione del mercato per quello che riguarda i piccoli commercianti, per dire. Beh, addirittura Bersani ha distrutto il piccolo commercio, Riccardo, questo mi sembra esagerato. Bersani, perché per quale motivo? Cosa ha fatto? Bersani ha semplicemente favorito in qualsiasi modo la grande distribuzione, in qualsiasi modo, con qualsiasi legge, anche quelle che non è riuscito a fare. In più, se mai volesse dare un incentivo, visto che ce l'hanno con il fatto che Berlusconi ha 1, 2, 3, 4, 5 televisioni e 700 giornali, il problema è che la legge attualmente non dice che non si può fare questa cosa. Il sistema cooperativo invece ha un tipo di tassazione diciamo particolare. Sì, ho capito, Riccardo, ho capito dove lei vuole andare a parare. Noi siamo in conclusione, mi sembra che lei sia passato dal Bersani che distrugge il piccolo commercio alle cooperative favorite. Non ci siamo come ragionamento, nel senso che mi sembra un po' fazioso come ragionamento, ecco. Abbiamo chiuso per questa sera con Fabrizio da Milano e altri ancora. Ci sentiamo domani, come al solito, la Zanzara 18:30. La Zanzara.